5A. Ascolta e completa. Se vuoi mangiare, mangia. Se vuoi studiare, studia. Se vuoi telefonare, telefona. Se vuoi aspettare, aspetta. Se vuoi giocare, gioca. Se vuoi riposare, riposa.